Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati alla trasmissione Un mondo dentro a un balloon, Fumetti a Sinistra. Oggi diamo conto del lavoro, diciamo, alacre del Comitato Ricerca Associazione Pionieri e in questo caso intervistando Alfredo Pasquali, quindi oggi in un altro ruolo, nel ruolo del protagonista piuttosto che del giornalista, intorno a un lavoro che ha realizzato proprio per l'anno rotariano 2020, il racconto Chi ha ucciso Cipollino. Alfredo Pasquali, tu sei uno degli animatori del Comitato Ricerche Associazioni Pionieri e in questi anni di lavoro intorno soprattutto a questo giornale illustrato tu hai avuto modo di prendere contatto con una quantità di materiale incredibile, migliaia e migliaia di linee illustrate, appunto il Pioniere, che sono stati pubblicati nell'arco dei 10 anni. E proprio da questo grande incontro hai deciso di provare una sintesi, se non un compendio. Perché quest'idea? Sul Pioniere, il giornale di Gianni Rodari e Dino Rinaldi, sono stati fatti già diversi volumi, però credo che mancasse un testo che in qualche modo riassumesse tutti gli aspetti del Pioniere, ovviamente dal Cipollino di Gianni Rodari al Atomino, Chiodino di Berti e Argilli, ma anche i racconti in prosa, ma anche i giochi, le lettere al direttore o la direttrice, oppure la tanta divulgazione tecnico-storico-scientifica, oppure lo sport. Insomma, il Pioniere in realtà non era un giornale solamente fumetti, lo sappiamo, era un rotocalco. Allora ho cercato in questo scritto, in questo testo, di riassumere una sorta di vademecum, o bignami se vuoi, tutto ciò che si trovava nel Pioniere, in particolare negli anni più importanti del Pioniere, gli anni 50 fino al 62-63. Dopo è stato un po' un declino progressivo, però insomma questo testo in qualche modo può servire perché avere un quadro generale del Pioniere. Hai scelto di fare un testo romanzato, anzi addirittura ti sei ispirato per la scrittura di questo lungo racconto, tra l'altro pieno anche di citazioni e rimandi, a Un famoso giallo. Perché? Ispirato a ben più nobili tentativi di saggi romanzati, uno per tutti, Il mondo di Sofia di Gardner, dove con una bellissima favola si racconta la storia della filosofia. Quindi mi sono ispirato ad Agatha Christie, facendo una sorta di trivio: da una parte il Pioniere, come dicevo prima, con i suoi elementi portanti, dall'altra 10 piccoli indiani, e poi il mondo dei fumetti, con fumetti che tutti conoscono, da Corto Maltese a Nick Carter, il conte Oliver del gruppo TNT, Diabolic ed Eva e tanti altri. Comunque nel titolo di questo racconto, che deve ancora essere pubblicato, ovvero Chi ha ucciso Cipollino, c'è già comunque una domanda, che è una domanda che ci si sempre posti, cioè chi di noi ha incontrato il Pioniere, ha approcciato il discorso storico in questo intorno a questo giornalino che fu all'epoca voluto di fatto dal Partito Comunista e anche da una serie di intellettuali sicuramente molto anche coraggiosi. Ecco, questa domanda ce la siamo posta un po' tutti e sempre ritorna e tante risposte ci possono essere. Tu l'hai messa proprio a titolo di questo testo. Sei riuscito a rispondere? Noi anche tramite questa trasmissione abbiamo notato con stupore che anche alcuni dei protagonisti allora ancora presenti, perché l'età chiaramente molto tarda, avevano in qualche modo rimosso questa esperienza, salvo poi, parlandone, tornare a essere entusiasti. Quindi c'era una sorta di rimozione, sconfitta storica, emarginazione di questo progetto, che invece fu un progetto con un suo importante valore. Allora, Chi ha ucciso Cipollino è chi l'ha ucciso, un poco nemico che allora fu molto acceso, quello della Chiesa Cattolica, contro l'esperienza di questa educazione laica e socialista. L'ha ucciso l'esistenza all'interno del Partito Comunista stesso, in senso tipo tradizionalista. L'ha ucciso una crisi economica. L'ha ucciso un fallimento di un progetto, l'ha ucciso un cambiamento dei tempi. E devo dire che c'è anche una nota assolutamente ironica ed è anche molto divertente, quindi in questa scrivere, insomma, in questo sperimentarti la scrittura, tu che sei un uomo invece di parola perché sei un giornalista, hai trovato anche un filone, diciamo, ironico. Da dove nasce questa parte di te? Ma in fondo parliamo sempre di fumetti, di filastrocche, di favole, quindi metterla sul serioso sarebbe tradire il tutto. D'altra parte, se proprio vogliamo raccogliere l'eredità di Gianni Rodari, e allora bisogna comunque cercare di trovare l'ironia e la leggerezza. Per esempio, per parlare di dittatori, Gianni Rodari la mette in grammatica e nella punteggiatura. Un punto piccoletto a superbo il racconto, dopo di me gridava verrà la fin del mondo. Le parole protestarono, ma che grilli ha per capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. E naturalmente lo scherzo si lega alla cosa seria, lo scherzo fa un passo indietro se la gente proprio non vuol capire, e allora sempre Rodari: è difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, bambini imparati a fare le cose difficili, dar la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. E nel suo piccolo anche il mio testo cerca di liberare questi schiavi che si sentono liberi, e per questo ho cercato di scrivere il testo con la mia parte bambina, perché anche per chi più bambino non è, è importante tenere questa voce del fanciullo. E quindi, per chiudere con Rodari, un signore maturo con orecchio acerbo, un giorno sul diretto Capranica Viterbo. Abbiamo ora al telefono Walter Focesato, coautore dell'Alfabeto di Gianni. Come vi è venuto in mente con Pino Boero di raccontare il pensiero di Gianni Rodari attraverso il gioco dell'alfabeto? È una proposta che ci è arrivata dall'editore, da Coccole Book. Ci è stata fatta e noi l'abbiamo accettata molto volentieri, e poi insieme all'editore è venuta fuori questa idea di raccontare, di declinare il pensiero e l'opera di Rodari, rivolgendoci sia ai ragazzi che all'adulto curioso attraverso un alfabetiere. Partirei da una domanda rispetto alla lettera Q, o meglio cuore con la Q, che tira un po' in ballo la questione degli errori ortografici, che però spesso sono errori che non stanno nelle parole ma nelle cose. Perché ci sarebbe bisogno di cambiare poi il mondo? E le chiedo, perché ancora tanti adulti, pur cresciuti con Rodari, stanno dalla parte della formica anziché accogliere il grande del regalo dell'etica della città, della cicala, per citare la mia filastrocca preferita? Questo è una domanda difficile. Evidentemente non hanno rispondo in maniera semplice, non hanno mantenuto neanche un po' di quell'orecchio acerbo su cui rifletteva Rodari, cioè questa famosa filastrocca che tra l'altro Rodari scrive per gli adulti, rivolgendosi agli adulti, ma che io leggo sempre anche ai bambini e ai ragazzi, dove lui dice di aver incontrato sul diretto Capranica Viterbo, no, un uomo con un orecchio acerbo. Ecco, io penso che sia questo, ecco. O è forse anche una lettura certe volte, come dire, superficiale o condizionata scolasticamente in qualche misura delle opere di Rodari. E quindi insomma l'etica del lavoro viene messa sempre al primo posto. Beh, anche in Rodari, anche Rodari dà una grande importanza al lavoro, Sì, è vero. Infatti sì, noi sì, sì, abbiamo messo anche la L di lavoro, sì. Però lo intendeva come rispetto e dignità del lavoro, come certo, esaltazione dell'importanza del lavoro, come il fatto che lavorando è uno dei tanti modi che noi abbiamo, forse il più importante per trasformare il mondo. Certo, senza trascurare invece il dono della cicala, insomma. Andiamo alla lettera G di Giornalini. Quanto è stato importante secondo lei per le generazioni di bambini che hanno letto Il Pioniere, Il Giornale dei Piccoli o La Via Migliore poter leggere quelle parole non allineate e sincere di Rodari in risposta alle loro domande, che toccavano poi temi forti, la disoccupazione, l'analfabetismo, la pace? Beh, lui ha sempre trattato temi di grande importanza, però lo ha fatto con le armi della fantasia, della creatività e con una straordinaria ironia e leggerezza. E sicuramente io credo che abbiano avuto molta importanza, non tanto La Via Migliore, che aveva una diffusione più attraverso i canali della scuola, quanto sicuramente il Corriere dei Piccoli, che era in quegli anni un gioiello dal punto di vista dei contenuti, della ricchezza dei collaboratori, no? E poi Il Pioniere, certamente in un ambito, se vogliamo, più ristretto, perché aveva una diffusione più limitata, aveva meno mezzi, si rivolgeva soprattutto al mondo della sinistra storica, del Partito Comunista, eccetera, però sicuramente anche quello, anche Pioniere, ha avuto una grande importanza. Io stesso sono cresciuto col Pioniere. Mio padre, che era operaio metalmeccanico, me lo portava, lo comprava in fabbrica, nella sezione, e poi lo portava a casa. E dunque per me Pioniere, insieme ad altre letture di bambino, a Topolino ovviamente, a Tex, giusto, al Corriere dei Piccoli, è stata una lettura di grande importanza. Ho incontrato Rodari lì, ecco. Ecco, P di pace. Per me c'è tutto Rodari in quella frase finale, no, della torta in cielo, ce ne sarà per tutti. Ma perché secondo lei oggi il lato pacifista di Rodari mi sembra un pochino avvertito come una roba vecchia dalle insegnanti, in un mondo che invece è devastato dai conflitti? Io credo che anche lì si tratti spesso di una lettura superficiale, non approfondita, di Rodari. In qualche misura Rodari, nel momento in cui giusto comincia a lavorare per Einaudi, pubblica i suoi libri più importanti, illustrati da Munari, comincia a collaborare col Corriere dei Piccoli, la scuola comincia a cambiare, prima lentamente, poi tumultuosamente, e Rodari approda nei libri di testo, approda nei libri di lettura, dove tuttora sta. E sicuramente questo ha nuociuto per la comprensione complessiva del grande messaggio di Rodari. Il fatto che sia stato antologizzato ne ha banalizzato la profondità, la ricchezza e la nettezza del suo pensiero. Qual era invece l'idea di Rodari della scuola, quella scuola grande come il mondo che immaginava lui? Ma intanto c'era giusto questa idea di una scuola che, insieme ad altri elementi, prima si parlava del lavoro, contribuisse a cambiare il mondo, a cambiare le coscienze. E poi sicuramente lui in quegli anni si è impegnato profondamente, non solo come scrittore per l'infanzia, ma anche come pedagogista, anche come giornalista, proprio per la trasformazione, per il cambiamento della scuola. D'altro canto, il suo libro più importante dal punto di vista della riflessione teorica da un lato e della proposta di lavoro dall'altra, La grammatica della fantasia, nasce da un lavoro fatto con le insegnanti di Reggio Emilia, no? E lui collabora a lungo al Giornale dei Genitori, dove scrive articoli di grande lucidità, è amico di Bruno Ciari, è amico di Mario Lodi, cioè è insieme a queste figure, ma pensiamo anche allo stesso Don Milani, naturalmente, una delle figure cardini del cambiamento della scuola italiana di quegli anni. Oggi purtroppo in gran parte vanificato e tradito, ma questo è un altro discorso. Come si fa a trovare le risposte giuste alle domande strampalate come quelle alla voce di domande, quelle domande che poneva Rodari ai bambini? Beh, certamente, direi sviluppando quello che Rodari conosceva bene, che è il pensiero laterale, se vogliamo, cioè la capacità di leggere le cose in modi diversi, la capacità di non stupirsi di nulla, la capacità di collegare fra di loro cose che a prima vista appaiono incongrue. D'altro canto era il gioco che lui non solo suggerisce nella grammatica della fantasia, ma che faceva addirittura negli anni in cui era un insegnante elementare di poca esperienza, lo dice lui stesso, ma che aveva letto i surrealisti, per cui lui diceva di estrarre due parole a caso dal vocabolario, mandava alla lavagna un bambino a scrivere una parola e un altro bambino dall'altro lato della lavagna ne scriveva un'altra, e su quello che veniva fuori, che so io, ma dico coccodrillo e valigia o sedia, veniva fuori una storia. Le chiedo infine, un paio di mesi fa, un incontro sulla letteratura per ragazzi, un illustre bibliotecario della mia città ha detto che Rodari oggi ai bambini va storicizzato perché non lo capiscono. Secondo lei è davvero così? Bisogna ricontestualizzarlo per farlo capire? Ma le storicizzazioni rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi mi sembrano perlomeno azzardate. Io ora non ho presente questo intervento, non so se sia stato, ecco, ma mi sembra, bisognerebbe contestualizzare l'intervento forse, mi sembra perlomeno azzardato. No, certamente io quando parlo di Rodari anche ai bambini o ai ragazzi, in genere ne parlo di più ovviamente agli adulti, lo storicizzo in qualche misura perché è figlio di quegli anni, però la sua lezione oggi più che mai rimane intatta e straordinariamente attuale, per cui le storicizzazioni, no, soprattutto fatte coi bambini, rischiano di annoiare, rischiano di allontanare dalla lettura, rischiano di avere un sapore scolastico, ecco, nel senso deteriore del termine. Arlecchino, Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo ottavo. Chi fa ritorni in compagnia nel taschino del Sor Malvasia? Come vi ho detto, le marionette si misero in salvo per tre stradette. Una di qua, l'altra di là, la terza diritta se ne va. La terza era Colombina e si nascose in una cantina. Non sapeva che fare e che dire e di paura voleva morire. Rimase nascosta fino a sera in quella cantina nera nera, dove aveva per compagno un malinconico piccolo ragno. Filava un filo sottile sottile e sospirava con aria gentile. La padrona, cara figliuola, è più dannosa della gragnuola. So i fastidi, le noie, i guai che per sua colpa io già sopportai. Appena è finita la rete mia, che lei con la scopa la spazza via. Io tesso in un angolo del soffitto e se non scappo, zac, eccomi fritto. Tesso in cucina, tesso in tinello, ma il risultato è sempre quello. Per questo mi vedi così magrino. Da un mese non piglio neanche un moscerino. Giusto cielo, la sento arrivare. Se ti trova è un brutto affare. Ma la signora, sempre allerta,